Coffee Break Italian Season 2, Episode 33. Salve a tutti, io sono Mark. Ciao a tutti, io sono Francesca. E siamo tornati. We're back with another episode of Coffee Break Italian. This is the series in which we'll help you learn Italian. And we are doing so at the moment with the help of La Mia Estate. Sì, la nostra soap opera. La nostra soap opera, esatto. I was about to ask you, cos'è La Mia Estate? What is La Mia Estate? It's a soap opera that we've created to help you practice what you've been learning over the past, well, basically the past 70-odd lessons of Coffee Break Mamma Italian. Mamma mia, quante! So this way you're going to be experiencing some language that you've already heard, and also, as we've heard in the past couple of episodes, definitely experiencing some new language too. Allora, siamo tornati con il terzo episodio della nostra soap opera e siamo contenti che tutti i nostri ascoltatori abbiano gradito i primi due episodi di questa nuova serie. Sì, sembra proprio così, Mark. E poi io sono contentissima perché abbiamo ricevuto un sacco di email, messaggi su Facebook e questo ci ha fatto piacere. Gli ascoltatori ci hanno scritto per dirci che riescono a seguire abbastanza bene le conversazioni e quindi sì, complimenti agli ascoltatori, significa che hanno lavorato bene in questi anni, no? Esatto, esatto. Francesca is speaking very quickly and very fast Italian there. Because they're so good. Absolutely. Hopefully everyone understood what she said. Basically, that lots of you have got in touch to say that you're enjoying the soap opera, that you're enjoying listening to the episodes and that you're understanding more or less everything in the episodes, and hopefully our explanation of what goes on helps. Okay, I'm sure that everyone is eager to find out what the next part of the story is, so we're going to listen to episode 3 in just a moment. But before doing so, Francesca, can you give us a summary of episode 2? Sì, nell'episodio 2 Mia e Riccardo arrivano finalmente in Italia. All'aeroporto conosciamo anche Anna e sua mamma Maria, che aspettano gli amici scozzesi. Abbiamo parlato dell'incidente con i crisantemi e abbiamo spiegato il concetto di bella figura, una cosa molto importante certo. In Italia. E verso la fine dell'episodio, quando Mia arriva al campeggio, conosciamo anche Giorgio, l'amico di Anna, che lavorerà con Mia per tutta l'estate. Ovviamente Riccardo non sa niente di Giorgio e Mia pensa già alla reazione del padre. E abbiamo visto la parola chissà, sì, who knows. Chissà, who knows how Riccardo, the overprotective father, will react when he finds out about Giorgio. Ok, it's time now to listen to episode 3. Allora mettiamoci al lavoro. Allora, oggi arriva una famiglia con tre bambini piccoli, poi una coppia con due cani e anche un gruppo di 20 ciclisti tedeschi. Dobbiamo anche rispondere a molte email e controllare la piscina. Ieri l'acqua sembrava un po' sporca. Ah sì, è vero. Che disastro! Ragazzi, cosa posso fare? I want to help. Just tell me what to do. Mia, perché stai parlando in inglese? Questo non era il nostro accordo. Papà, ma what are you doing here? You promised not to be checking me all the time. Volevo solo vedere dove lavori e se va tutto bene. Sì, papà, va tutto bene. Ora puoi andare. Buongiorno, ma che succede qui? Cosa sono queste facce? Buongiorno, signora Maria. Che piacere rivederla. Sono passato a salutare le ragazze, ma ora vado. Devo andare a ritirare l'auto che ho noleggiato per le vacanze. Signor Riccardo, io sto andando in città, quindi se vuole può venire con me. Oh, grazie mille. Accetto volentieri il passaggio. Non è di certo un buon inizio per Mia. Lei desidera così tanto un po' di libertà e di indipendenza. Del resto, questa è la sua prima vacanza all'estero. E non immaginava certo di dover condividere ogni momento con suo padre. Per fortuna che la signora Maria, come ogni mamma italiana, ha capito subito la situazione e ha pensato di offrire un passaggio a Riccardo per dare a Mia la possibilità di parlare e lavorare tranquillamente con Anna e Giorgio. Ieri sera ho telefonato a mia madre e mi ha detto che ho fatto un grande errore. In che senso? I crisantemi, avevo dimenticato il loro significato. Ah, non si preoccupi. A caval donato non si guarda in bocca. Oh, mi ricordo questa espressione. La usava sempre mia nonna Ottavia. Esiste anche in inglese. Don't look a gift horse in the mouth. Ah, che difficile. Sì, difficile come il rapporto tra me e Mia. Ho notato. Lo so, a volte sono un po' iperprotettivo nei confronti di Mia, ma lei è la mia unica ragione di vita. Capisco, capisco. Anche per me è la stessa cosa. Da quando è morto mio marito, Anna ed io siamo diventate molto attaccate. E anch'io, come lei, voglio solo il meglio per mia figlia. Eccoci, siamo arrivati. Oh, grazie ancora. È stata davvero gentile. Spero di vederla presto al campeggio. Va bene, ma cerchiamo di lasciare le ragazze tranquille. Devono lavorare e Mia deve anche migliorare il suo italiano. Oh no, ma che cos'è? Una goccia? Oh no, i temporali estivi in Italia iniziano con una goccia e dopo un minuto piove come Dio la manda. Accipicchia, che sbadato. L'ombrello l'ho dimenticato nella macchina di Maria. Il primo giorno in Italia non è certo iniziato con il piede giusto, ma forse la pioggia rinfrescherà le idee a tutti, soprattutto a Riccardo, che ha capito di essere un po' troppo esagerato nei confronti di Mia. Okay, our third episode of La Mia Estate. Francesca, there's a lot happening in this one. Sì, the plot, la trama is becoming more and more interesting. Mm-hmm, la trama, the plot, what a nice word. Sì, e mi sa che anche in questo episodio abbiamo molto di cui parlare, vero? Sì, vero. Parole nuove, strutture grammaticali e anche espressioni idiomatiche. That is what it's all about. So we've got new words, new structures, and also idiomatic expressions to learn. Sì. Let's listen again to the first segment, the first scene, and then we'll have a little chat about that afterwards. Va bene. Allora, oggi arriva una famiglia con tre bambini piccoli, poi una coppia con due cani e anche un gruppo di 20 ciclisti tedeschi. Dobbiamo anche rispondere a molte email e controllare la piscina. Ieri l'acqua sembrava un po' sporca. Ah sì, è vero. Che disastro. Ragazzi, cosa posso fare? I want to help. Just tell me what to do. Okay, so in this first part, we've got Anna, Giorgio and Mia discussing the chores that they have to get done that day. Sì, Anna is listing the people who are arriving at the campsite today. Mark, chi sono queste persone? Let me see if I can remember. She said something about una famiglia con bambini piccoli. Sì, quanti? Tre. Sì, bravissimo, okay. Tre bambini piccoli. A family with young children. Una coppia con due cani, penso. Sì, bravo. A couple with two dogs. E ancora qualcuno. Un gruppo di tedeschi, di ciclisti, sì, tedeschi. A group of... quanti? Oh, non mi ricordo. 20. 20. So a group of 20 German cyclists. È vero, è vero. E hanno molto lavoro, quindi i nostri simpatici protagonisti. Esatto, e non è tutto, vero? No, infatti Giorgio dice, dobbiamo anche rispondere a molte email e controllare la piscina. So they've got to reply to emails and they've got to check the swimming pool. Sì, did you get why they have to check the swimming pool? Perché l'acqua sembrava un po' sporca. Bravo, bravo. The water seemed a bit dirty. I'm sure that the water will not be dirty and they'll need to get that cleaned as quickly as possible. Sì. I love Anna's reaction, something that you quite often say, Francesca. Oh, I know what you mean. Che disastro. What a disaster. Okay, let's see what happens next because they are joined by someone. Mm-hmm. I'm sure you can guess who. Mia, perché stai parlando in inglese? Questo non era il nostro accordo. Papà, ma what are you doing here? You promised not to be checking me all the time. Volevo solo vedere dove lavori e se va tutto bene. Sì, papà, va tutto bene. Ora puoi andare. Buongiorno, ma che succede qui? Cosa sono queste facce? Buongiorno, signora Maria. Che piacere rivederla. Sono passato a salutare le ragazze, ma ora vado. Devo andare a ritirare l'auto che ho noleggiato per le vacanze. Signor Riccardo, io sto andando in città, quindi se vuole può venire con me. Oh, grazie mille. Accetto volentieri il passaggio. Oh, Riccardo è davvero insopportabile. He is, however, he does use an interesting structure when he hears Mia speaking English rather than Italian. Ah, ok, è vero. So he's okay for the grammar he uses. lui dice, perché stai parlando inglese? He could have said, I guess, perché parli inglese. Sì. But when he says stai parlando, it's the gerund form. It's the very much the ongoing thing that's right happening right now. Sì, esatto. In Italian we use a verb stare, mm-hmm. followed by the gerund, to express an action in progress. Yeah, we've talked about this before. In season one, we taught Sto imparando l'italiano. Sì. I am learning Italian. It's quite straightforward and it's fairly easy to use. I think sì. our listeners are quite comfortable with this. We'll discuss it in more detail in the bonus episode. Okay. Anyway, when Maria arrives, she asks a typical question that most parents would ask. Sì, Maria dice, che succede? What's happening? What's going on? Yeah, so there's obviously a little bit of a fracas. Oh. And she wants to know, what's going on? Could she have asked cosa sta succedendo? Ah sì, bravissimo, Mark. Certo, she could have used the gerund of succedere, succedendo, preceded by stare, sta succedendo. Okay, I think we're also getting a bit more used to the way that Riccardo speaks formally to Maria. Sì, è vero. Riccardo and Maria have only recently met. That's why they're still using the formal way of speaking. Ad esempio, una frase interessante che sentiamo è che piacere rivederla. What a pleasure to see you again. And at the end of rivedere, we have la, the direct object pronoun, which is the formal direct object pronoun instead of ti. Exactly. And Maria also uses the verbs volere and potere in the formal way. Sì, se vuole può venire con me. If you want, you can come with me. In English, we would use the same question no matter whom we are talking to. But in Italian, there's a clear difference between se vuoi, puoi venire con me, informal, and se vuole, può venire con me, formal. Sì, è molto importante in italiano. Ma Mark, perché Maria dice questa frase a Riccardo? Well, Riccardo has to go into town to collect the car he has hired for the summer. Sì, devo andare a ritirare l'auto che ho noleggiato per l'estate. That's what he says in the conversation. So some good vocabulary in there. Ritirare, to retract, to collect, sì. or something like that. And noleggiare, to rent. So Riccardo accepts Lyft, il passaggio, mm-hmm. Which Maria has kindly offered him. And she takes him into town to collect his car. Sono curiosa di sapere cosa si diranno in macchina quei due. We'll hear that in just a moment. Let's hear first of all from our narratrice. Non è di certo un buon inizio per Mia. Lei desidera così tanto un po' di libertà e di indipendenza. Del resto, questa è la sua prima vacanza all'estero e non immaginava certo di dover condividere ogni momento con suo padre. Per fortuna che la signora Maria, come ogni mamma italiana, ha capito subito la situazione e ha pensato di offrire un passaggio a Riccardo per dare a Mia la possibilità di parlare e lavorare tranquillamente con Anna e Giorgio. Allora, la nostra narratrice ha fatto un bel riassunto della situazione, vero? Sì, bravissima la nostra narratrice. No, scherzo. Seriamente, la narratrice dice che non è un buon inizio per Mia, not a good start for Mia. Perché Mark non è un buon inizio? Allora, Mia desidera un po' di libertà, indipendenza. Sì. E non immaginava di certo di dover condividere ogni momento con suo padre. Sì, condividere, che bel verbo condividere. Yeah, from dividere, to divide, condividere, to divide with, means to share. To share, sì. Ma andiamo avanti e ascoltiamo la conversazione in macchina. Oh, finalmente. Ieri sera ho telefonato a mia madre e mi ha detto che ho fatto un grande errore. In che senso? I crisantemi, avevo dimenticato il loro significato. Ah, non si preoccupi. A caval donato non si guarda in bocca. Oh, mi ricordo questa espressione. La usava sempre mia nonna Ottavia. Esiste anche in inglese. Don't look a gift horse in the mouth. Ah, che difficile. Sì, difficile come il rapporto tra me e Mia. Ho notato. Lo so, a volte sono un po' iperprotettivo nei confronti di Mia, ma lei è la mia unica ragione di vita. Capisco, capisco. Anche per me è la stessa cosa. Da quando è morto mio marito, Anna ed io siamo diventate molto attaccate. E anch'io, come lei, voglio solo il meglio per mia figlia. Ok, I think in this section we get to know a bit of a different Riccardo. Sì, devo ammettere che è molto carino in questa parte, soprattutto quando si scusa per i crisantemi. Maria doesn't even understand at first. Why no. He's saying sorry. È vero, lei usa l'espressione in che senso, che significa what do you mean? Sì, e usa anche un'altra espressione molto simpatica. Ah sì, a caval donato non si guarda in bocca. Something that Riccardo's already familiar with, because his grandmother Ottavia used to say that all the time. Perhaps saying don't look a gift horse in the mouth in English isn't quite as common these days. Is that phrase still as common in Italy? Oh, yes, yes. You can use it with teenagers and everyone can understand it in Italian. Excellent. Okay. Let's move on. Sì, something I wanted to discuss with you, Mark. You know, I always say, non preoccuparti, Mark, when you are a bit worried. Yep. Mm-hmm. But did you hear what Maria said in the conversation? Yeah, she said, non si preoccupi. Bravissimo. And again, she's using non si preoccupi rather than non preoccuparti because she's still using the formal way of speaking mm-hmm. with Riccardo. And it's an imperative. It's an imperative, sì. And it's also reflexive. Bravissimo. There's a lot going on. Sì. We don't have time to discuss it here, but we'll possibly look at that more in the bonus episode. In the episode. Bonus episode, sì, una buona idea. Let's also have a look at some more vocabulary. Okay. Riccardo dice che qualcosa è difficile. Che cosa? A che cosa si riferisce? Ha detto è difficile il rapporto tra lui e Mia. Bravissimo, il rapporto, the relationship. Mm. He admits that at times he's overprotective, but he also gives a reason for his behavior. He does. He says, Mia è la mia unica ragione di vita. Mia is my only reason for living. Oh, che carino. Ah, Riccardo ha un cuore, dopo tutto, vero? Certo. E verso la fine di questa parte scopriamo anche qualcosa di nuovo sulla vita privata di Maria. Sì, Maria is a widower. She says, da quando è morto mio marito, since my husband died. Sì, using preposition da, which we have discussed several times now. Exactly. Ma è un po' triste tutta questa cosa, so Mark, let's not finish on a sad note, okay. Please. I think it's nice what Maria says at the end, and I think it's probably what all parents want for their children. Exactly, she says, voglio solo il meglio per mia figlia. Sì, esatto. I only want the best for my daughter. And that was the end of their conversation in Maria's car. Let's see what happens when she drops Riccardo off at the car rental. And we'll do that just after our break. Interrompiamo questa trasmissione per una comunicazione importante. If you'd like to make faster progress with your Italian, don't forget that you can use the premium version of this course, which features video versions of the lessons, comprehensive lesson notes, and bonus listening materials. Allora, cosa aspetti? What are you waiting for? If you'd like to take your Italian to the next level, go to coffeebreakitalianplus.com. Okay, we're listening to our third episode of La mia estate. Let's hear our next section. Eccoci, siamo arrivati. Oh, grazie ancora. È stata davvero gentile. Spero di vederla presto al campeggio. Va bene, ma cerchiamo di lasciare le ragazze tranquille. Devono lavorare e Mia deve anche migliorare il suo italiano. Okay, this is quite a short bit, but there are some interesting things to discuss. Sì, ad esempio, eccoci. Here we are, there we are, at the very beginning. It's something we say all the time in Italian. Ecco, just being on its own, you can give someone something with ecco. Sì. But when you say eccoci, here we are, we've arrived. Sì. Okay. And there were more examples of formal Italian in this section. Sì, bravo Mark. Riccardo dice, è stata davvero gentile, you've been really kind. E anche, spero di rivederla presto. I hope to see you soon. And Maria ends with a suggestion. Sì, cerchiamo di lasciare le ragazze tranquille. So cercare di fare qualcosa is to try to do something. Sì. So she's saying, let's try, cerchiamo di lasciare le ragazze tranquille. So let's try to leave the girls in peace. Maria è molto saggia, eh? E poi Maria aggiunge anche un'altra cosa. Devono lavorare e Mia deve anche migliorare il suo italiano. Yep, so they have to work and Mia has to migliorare, to improve her Italian, which is the main reason why Mia is in Italy, let's be honest. Okay, then we have a little bit of a monologue from Riccardo. Sì, il monologo di Riccardo, sotto la pioggia. Sotto la pioggia, ascoltiamo. Oh no, ma che cos'è? Una goccia? Oh no, i temporali estivi in Italia iniziano con una goccia e dopo un minuto piove come Dio la manda. A Cipicchia, che sbadato, l'ombrello l'ho dimenticato nella macchina di Maria. This is dramatic stuff. I think he should get an Oscar just for that monologue on his own. È un attore fantastico, Riccardo. E poi questo monologo è così italiano, mi ricorda proprio dell'estate italiana. Sì. Quando una piccola gocciolina fa scatenare dei temporali pazzeschi. Yeah, it starts just with one or two drops and then all of a sudden you're soaked. Sì. I think Riccardo said, piove come Dio la manda. Sì, che bella espressione. Letteralmente significa, it's raining the way God is sending it, meaning the rain. Yep. We would say it's bucketing down or it's pouring or sì, something like that in English. Sì. Piove come Dio la manda. I really like that expression. I need to memorize this one and perhaps impress my mom next time I'm with her when it's raining, which, let's face it, in Scotland happens quite often. Sì, sì. But I would also like to ask you about a Cipicchia, che sbadato. Ah, sì, a Cipicchia is also another very common and nice exclamation. It's like, oh gosh, oh goodness. It doesn't really have a real translation. It's not in any way vulgar. Oh no, not at all. It's very similar to Mamma Mia. Mamma Mia, sì. Okay. So Acipicchia, Mamma Mia, these can be used together. I don't know that Acipicchia would have been quite a good name for a musical, though, to be honest. Oh, you're suggesting you want to change the name of the musical from Mamma Mia to Acipicchia? Acipicchia, here we go again. I think we've done enough Mamma Mia this summer. Sì, sì. If you haven't yet seen our Mamma Mia parody, then you do have to have a look at that on YouTube with Francesca in a starring role, of course. Oh, no. But yeah, we've done enough Mamma Mia. But Acipicchia works the same way as Mamma Mia. Now, the reason he says Mamma Mia or Acipicchia in this case is that Riccardo has just realized he's left his umbrella in Maria's car. Lui dice di essere un po' sbadato. Sbadato. Un'altra bella parola, eh? So what does sbadato mean? Sbadato is someone who doesn't pay attention to the things he or she is doing. Okay. I'll give you an example. For example, if I leave the house with all the lights on and I realize only later on when I'm already in town, I can say, oh, che sbadata, ho lasciato tutte le luci accese. Okay, so in English? In English, scatterbrain? Scatterbrain, yeah, that would work. Or airhead, perhaps. Another good word. So sbadato, in Italian, povero Riccardo, iperprotettivo e sbadato. Sì. If I remember rightly, I think in the next segment, the narratrice comes up with a few more adjectives for Riccardo. Ascoltiamo subito. Il primo giorno in Italia non è certo iniziato con il piede giusto, ma forse la pioggia rinfrescherà le idee a tutti. Soprattutto a Riccardo, che ha capito di essere un po' troppo esagerato nei confronti di Mia. Ok, so, la narratrice non ha molta simpatia per Riccardo. No, abbiamo già capito questo. E come l'ha descritto? Troppo esagerato. Sì, sì, quindi iperprotettivo, sbadato, esagerato. Okay, but I also like the start of the narration part here when you said il primo giorno non è iniziato con il piede giusto. It didn't start with the right foot or on the right foot, as we would say in English. Yeah, definitely not a good start for il povero Riccardo. Ma come abbiamo sentito, forse la pioggia rinfrescherà le idee a tutti. Like, hopefully the rain will freshen up everyone's ideas. Speriamo. Speriamo, speriamo. Okay, so we will be going through the whole text once again in our bonus episode. And there we'll literally split it up and talk about every single sentence and explain everything and talk a little more about some of the grammar, some of the vocabulary and some of those idiomatic expressions covered in this episode. That's the bonus episode, part of our bonus materials for Coffee Break Italian, which you can find at coffeebreakitalianplus.com along with the bonus audio. There's also a video episode and our lesson notes, which will help you get more out of these episodes of Coffee Break Italian. And don't forget that you can follow Coffee Break Italian on social media. We are at Learn Italian on Twitter, and also search for Coffee Break Italian on Facebook for our regular cultural and language challenges. And keep up with all of us here at Coffee Break on Instagram. We are at Coffee Break Languages. Indeed. And also, don't forget to check out YouTube. We have got an increasing library of video content on YouTube. We just published another episode of Walk, Talk and Learn Italian this week. And that was all about restauri in corso. Sì, mi ricordo. These kind of phrases that perhaps could affect your trip to Italy, especially if you don't know what they mean. So do check that out on YouTube. You'll find our YouTube channel at Coffee Break Languages. That's it for this episode of Coffee Break Italian. We'll, of course, be back again very soon with episode 4 in our La Mia Estate soap opera and episode 34 of our Coffee Break Italian season 2. Allora, al prossimo episodio. Ciao! Ciao! You have been listening to a production of the Coffee Break Academy for the Radiolingua Network. Copyright 2017, Radiolingua Limited. Recording copyright 2017, Radiolingua Limited. All rights reserved.